La strada del bosco è lunga e larga e stretta, è fatta barchetta, è fatta per fare l'amor, è fatta barchetta, è fatta per fare l'amor. Che pare una stella caduta, caduta dal cielo. È scesa dal cielo, mandata, mandata da Dio. La strada del bosco è lunga e larga e stretta.